Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Tra quelli non sono spari, sono fuochi d'artificio, fuochi pirotecnici, Posillipo, Brasile, per celebrare la vittoria di Pardo alla schedina settimanale. C'è un Pierluigi on fire, no, 8 vicinissimo a fare 10, praticamente a prenderle tutte. È già la seconda volta stamattina. Ancora un successo nel derby interno su Capuano, interno che su quindi Capuano. Vede Pardo in vantaggio di più due. Quanto per la, qual è la classifica parziale? Non mi ricordo, sarà 6 a 4, una cosa del genere. Ma questa è la classifica secondo con un Pardo che sta praticamente bullizzando Capuano, no, anche sui social, ridicolizzando secondo Capuano, qui è come per gli organizzatori e per la questura, per i dati non la realtà è che non sono soltanto due completamente avanti. No, io ringrazio De Luca che è stato molto carino anche stamattina, ma è la seconda volta oggi che tu mi fai dei complimenti per delle cose che sono addirittura banali. L'altra cosa banale è invece volevo dire, abbiamo 5 che altro è finita. Ma sì, ma i due errori li vogliamo dire, i due errori tuoi? Il solito errore, solo Bologna e il derby. Genoa-Samp X, avevi detto, e Samp-Bologna X. Sì, Samp e Sassuolo, sbaglio sempre. Infatti Sassuolo-Bologna, sì. Sì, no, ma dico, se sbaglio sempre Samp e Sassuolo, per cui la settimana in cui giocano una contro l'altra almeno ne sbaglio una sola. Perché... capito? No, comunque sì, ma è ammirevole. Sta bene? Va bene, Capuano, è lì. Sì. Non c'è. Contumacio ci sta ascoltando naturalmente. Torna lo salutiamo. Venerdì alle 3, nuovo appuntamento con la schedina. Possiamo capirci tutti di che stiamo, voglio dire. Ognuno, cioè, i pronostici bisogna saperli fare. Ciao Pier. Ciao Pierluigi. Ciao. Che fa De Luca? Dove vai? Giorgio De Luca va a fare l'autore, va a fare anche altre cose. Ah, sta lì dietro e fa 5, 6. Aspetta che ti metto dentro. Aspetta che adesso ci abbiamo. Adesso arriva Begham. Adesso arriva Begham. È in linea. È dietro da Modena. Aspetta. Ok, visto. Vabbè, lavoro. No, allora, a proposito di derby, non quello tra te e Capuano, ma sulla schedina, ma di derby di Milano che si gioca a beneficio della Cina tutta intera, per la prima volta a mezzogiorno e mezzo di sabato 15 aprile, giorno prima di Pasqua. Siamo colonizzati. No, ma è bello, io sono favorevole, non mi fa orrore questa cosa, credo sia invece abbastanza, cioè 12:30 è uno slot, come dicono quelli bravi, è una situazione comunque interessante perché significa che la partita va isolata, quindi è separata da tutte le altre, quindi è un buon orario. In Inghilterra ci giocano e nessuno fa, cioè non fa scandalo secondo me. Poi è ovvio che la partita la sera è meglio, perché si fa cena dopo, mentre alle 3 i ristoranti poi spesso sono chiusi, quindi questo è il principale aspetto. Sì. Però in Cina, a parte le battute, alle 20:45 fa fatica. Questa componente posso dirti, non ci vedo, cioè non riesco proprio a scandalizzarmi di questa roba qui, sai come la penso su tutta la no, ma non è questione di scandalizzarsi, non è tanto questione di 12:30 orario, io sono un fan dello spezzatino. Sì, anch'io, ma non c'è nessun problema. Il fatto è che lo si fa per lo più in omaggio ai nuovi proprietari del calcio milanese, alcuni già definiti, conclamati e molto ricchi, altri che invece stacaparra di questi ultimi 100 milioni sono in giro per la questua. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Allora, ti propongo tre argomenti, poi già vi dico che dopo le 15 avremo il maestro Bartoletti con vari effetti sonori e avremo un grande ospite milanista. Lo dico subito, avremo Renzo Rosso, che Renzo Rosso, che siamo al top. Ma intanto, amico mio. Ma intanto partiamo da Juventus Porto, che Pierluigi Pardo qui presente ci racconterà questa sera per la gioia di grandi e di piccini, e poi parliamo anche di piccini. Allegri su questa gara, chissà che sia la volta buona per vincere la Coppa. Speriamo quest'anno che sia la volta buona. Noi bisogna creare tutti i presupposti per farli, bisogna avere la consapevolezza che possiamo vincerla. Poi se ci sarà una squadra più forte, come quando giochi in Champions puoi trovarle, perché Barcellona era fuori, a un certo punto è diventata la favorita della Coppa, ma è normale. Il Real Madrid, il Bayern ora sta attraversando un ottimo momento, ma era normale, perché tutti a ottobre, novembre dicevano che il Bayern non era favorito. Il Bayern arriva a marzo e il Bayern conta e la trovi lì a lottare la Champions, come sarà l'Atletico Madrid e quindi se è una, o il Manchester City, perché se il Manchester City passa è una squadra che può ambire a vincere la Champions. Quindi l'importante è arrivare nelle prime otto, poi dopo vediamo il sorteggio e se siamo bravi andare avanti. Allora, questo è un Allegri sulla gara e speriamo che noi speriamo che ce la facciamo. Sì, assolutamente. Poi c'è un Allegri che si sfila la tuta della Juventus e indossa un mantello nero con cappuccio alla Savonarola. Cioè, la gente va allo stadio e invece di guardare la partita si fomenta. Poi dopo, se succedono casini in giro e incidenti, è la cosa normale. È normale. E quindi se si vuole fare un percorso diverso, secondo me bisogna, non parlo da allenatore della Juventus, parlo da padre di una figlia di 22 anni e un bambino di 5. Bisogna fare un percorso diverso. Allegri il moralizzatore, quando i bambini fanno oh, che meraviglia. Beh, però ha ragione secondo me, perché secondo me stiamo toccando dei livelli che sono francamente pericolosi. Sì. Quindi c'è poco da dire. No, li tocchiamo, poi, li tocchiamo da un pezzo. No? Quel rigore io non avrei mai dato, non c'è. Io al tempo stesso faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Al tempo stesso, però, se guardo questa stagione, non vedo nessuna tendenza particolare. Ci sono state delle partite dove la Juve è stata favorita e delle partite dove la Juve è stata sfavorita. Non vedo veramente nessun disegno. Quell'episodio lì è chiaro che è un episodio che pesa, perché tu vedi adesso una classifica meno 8, sarebbe stato meno 6. Il calendario della Juve delle prossime uscite è un po' complicato. Quindi nessuno discute questo, però. Se rifacciamo la moviola di quella partita, possiamo anche ricominciare tutti quei discorsi secondo cui comunque gli sportivi non devono fare, agli sportivi non compete il ruolo di educatori eccetera, ma sono discorsi che abbiamo fatto mille volte. Però su questo Allegri moralizzatore torneremo tra poco. C'è un altro aspetto e poi vi racconteremo anche altri due grandi moralizzatori, Mourinho e Conte, che ieri sera per poco non vengono alle mani, ma questa è un'altra storia ancora molto carina che seguiremo più tardi. Terzo aspetto, c'è una quinta incomoda nella corsa verso la Champions League. La Lazio ha battuto anche il Toro 3-1 e tutti parliamo di Roma, di Napoli, di Inter, giustamente. Ma la Lazio dove la mettiamo? Lulic? Ma sognare si può sempre, quindi non è un sogno, però il nostro obiettivo rimane sempre di entrare in Europa, quindi Europa League, questo è il nostro obiettivo, ci siamo detti inizio stagione. La Lazio la mettiamo nel posto che le compete, è una delle grandi sorprese per chi vuole di questo campionato, e chissà mai che tra i litiganti il quarto goda tra i litiganti, che sono ovviamente quelli citati sopra. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo di nuovo con oltre Pierluigi Pardo un ospite. Tutti convocati. Convocati. Io credo che il calcio italiano bisogna che prenda un indirizzo completamente diverso, perché diamo, sicuramente non siamo di buon esempio, e soprattutto nella vita credo che ci siano delle regole e soprattutto serva molta educazione e rispetto, soprattutto per i bambini, che vanno nelle scuole calcio e che fin da piccoli vedano che nei campi di calcio di Serie A succedono delle cose, ma non quella che è successa venerdì, questa che è successa venerdì è l'ultima di una serie che è successa, che sono successe nei campi di calcio in Serie A. E quindi se vogliamo iniziare un percorso diverso, perché tutti parlano, ma nessuno fa, nella vita bisogna fare, non parlare, va bene? E allora bisogna fare una roba diversa e di conseguenza avere rispetto, avere delle regole e soprattutto avere educazione. Poi dopo avere la cultura della vittoria e della sconfitta. E io sorrido, ma veramente sorrido, a certe dichiarazioni, ma non di venerdì, ma anche di altre, quando la settimana prima attaccano perché l'arbitro non ha dato rigore, la settimana dopo gli arbitri sono più bravi tutti. No, ma ragazzi, cioè, siamo ai limiti della follia. In Italia stiamo arrivando ai limiti della follia. Messa cantata di Allegri, il grande moralizzatore. Michele Plastino, quale grande moralizzatore della storia ti viene in mente? A me è venuto in mente Savonarola, poi ce ne possono essere mille altri. Sì, no, no, sto sorridendo per i tuoi esempi. Beh, sì, così di prima chitto mi viene in mente anche a me. Insomma, proseguiamo la messa cantata con Pierluigi Pardo e Michele Plastino. Allora, ha ragione Allegri in tutto quello che dice. Adesso ci stiamo scherzando sopra. Ha ragione con il piccolo dettaglio che ieri sera c'era Ciccio Valenti che lo ricordava, che ovviamente nel passato ci sono state anche delle situazioni. C'era un momento in cui la Juve, per esempio, dopo aver scontato, diciamo, la vicenda Calciopoli, ha avuto delle situazioni arbitrali particolarmente complicate e ci furono le lettere, ci furono le proteste, ci ricordiamo anche Marotta in tempi recenti a livello europeo protestare, quindi voglio dire, è chiaro che questo tipo di discorso è condivisibile, ma nessuno, credo nessuno nella storia del calcio italiano sia immune da questo peccato, che è quello di lamentarsi quando le cose allora proseguiamo male. Le parabole, però, chi però, è senza ma, peccato però, scagli ma, la prima sì, pietra esatto, guardiamo però, le travi e le pagliuzze negli occhi però è vero, è vero secondo me che siamo in una fase particolarmente complicata e particolarmente pesante, cioè c'è veramente un brutto clima, sì, però, anche Luigi, perché è un clima che, sì. La memoria d'uomo non si ricorda campionato immune da queste tiritere, quindi è inutile sì, stare però... sì, in ogni caso non c'è campionato. Allora, diciamo che secondo me ci sono troppe polemiche in relazione a quello che è accaduto, che secondo me non è molto, lo ribadisco, cioè, secondo me è un campionato esatto, nel quale esatto. Io non riesco proprio a vedere un vento. C'era un momento in cui la Roma sembrava favorita con tanti sì. rigori all'inizio della stagione, poi ha perso per esempio l'ultima partita importante, che ha perso il campionato prima di Napoli, l'ha persa per gli episodi arbitrali a Genova. Faccio fatica a interpretare, no? A dire che, no, che ci sia un disegno. Poi mettiamoci ieri sera c'era Ferrero ospite in studio, insomma Ferrero curiosamente a ritorno in San Roma ha avuto sicuramente dei vantaggi arbitrali, ma all'andata ha avuto invece dei problemi allora, con Roma e fino Napoli, a quando si danno seguitrici. Fino a quando si danno e si prendono tutto rientra nella nella normalità. Per me è così. Ma, anche per me sentiamo Michele Plastino. Ma io lo faccio veramente breve, ritengo che dopo tanti anni tutto questo faccia parte proprio anche del gioco, nel senso che ci sono tutti dentro, è un monopoli un po' delle parole. E mentre per quello che riguarda Allegri, io credo che questa volta la sua esplosione ha parlato troppo spesso di educazione eccetera, sia riferita a quello che è successo poi negli spogliatoi. noi, di cui noi ogni tanto adesso sentiamo qualche notizia, ma non c'eravamo, quindi non sappiamo esattamente quello che è successo e quello che hanno trovato poi. Allora, Michele, hanno trovato quello che abbiamo scritto. Questo te lo posso dire. Penso addirittura, no, io dicevo magari hanno trovato anche di più. Allora c'era lo sgabello scassato, c'erano questi scudetti di polistirolo, di cartongesso, mettila come vuoi, su cui c'erano delle scritte, c'erano degli armadietti rotti. Il tutto è confermato, la Juventus ha deciso di non divulgare le foto per non buttare un cerino sulla benzina. Hai confermato da chi, scusami? Beh, confermato. Cioè, da chi? Confermato dalla Juventus. Ah, vabbè. Ma no, io non è che metti in discussione la parola della Juve. Cioè, non è stato smentito da alcuno. Ecco, questa è la cosa più bella a dire, no? Il fatto che nessuno abbia smentito lascia pensare qualcosa sia avvenuto. Però ne parlavo anche ieri sera con Maurizio Grosetti, e forse lo dicevo anche in radio ieri, ormai si confondono i piani con Bollito. Da un lato è apprezzabile il fatto che non siano state chiamate le foto, non potrebbe stare un ulteriore elemento di poca eleganza. Dall'altra però è anche molto difficile per noi commentare qualcosa di cui non abbiamo visto. Quindi questo, io sono un po' imparato questa situazione qui. È chiaro volevo solo aggiungere una cosa, nel senso che capisco quello che ha detto Allegri a questo proposito, perché lungi da me l'idea di giustificare quello che è accaduto. Io credo che l'eccezionalità dell'evento in Serie A, perché è chiaro che in campi di altre categorie ne ho viste anch'io di tutti i colori da questo punto di vista, sia il fatto che è accaduto tutto all'ultimo secondo, che i giocatori sono stati portati via immediatamente e che quindi ci sia stata una scarica di rabbia e di frustrazione sfogata in quel bruttissimo modo. Cioè, se l'episodio del calcio di rigore fosse avvenuto, a mio avviso, al decimo del secondo tempo, con magari protesto, espulsioni, eccetera, questo per me non sarebbe accaduto. Psicologico, sì. Non sarebbe accaduto, siamo d'accordo. Qualcuno sottolineava anche, ricordava ieri, a proposito del danneggiare le proprietà altrui, che è sempre comunque un atto di vandalismo, non c'è spiegazione di vandalismo. Qualcuno ricordava ieri che nel 2010 fu la Juventus a distruggere lo spogliatoio di San Siro dopo un Inter-Juventus, e quindi non è che vogliamo fare delle distinzioni o delle discriminazioni, ok? Vale la mancanza di educazione civica da una parte e vale dall'altra. Pari sono sì, nonostante mai classifiche. Come dico spesso io, mai pesare lo sterco, perché in ogni caso così è. Intanto ieri in Inghilterra, giusto come corollario, Conte e Mourinho arrivano quasi alle mani, il Paris Saint-Germain manda all'UEFA, questo non in Inghilterra ma in Francia, manda all'UEFA un dossier sull'arbitro di Barcellona-Paris Saint-Germain. In Spagna parlano di Florentino Perez indignato per la remontada della Barcellona, che poi non so cosa voglia dire indignato. Al torneo di Viareggio c'era l'allenatore del PSV Eindhoven che, espulso dall'arbitro, ritira l'intera squadra, eccetera eccetera eccetera. Ne parliamo anche con gli ascoltatori più tardi, 800 24 00 24, perché io vado un po' di corsa perché ho altre due domande, secche da sottoporre a Michele Plastino. La Lazio è in corsa per la Champions, Michele? La Lazio fa parte di un limbo, nel senso che il campionato è fatto in questo modo: la prima, che si sa, due che sono le grandi candidate, altre due che sono quasi ormai sicuramente in Europa League, ma che fanno parte della speranza, delle squadre della speranza, cioè se crolla uno arrivano, quindi in questo senso sì, la Lazio ha anche qualche speranza. Perfetto, un'ultima cosa... Se lo merita pure, devo dire. Ah, se lo merita assolutamente. Inzaghi, come dicevo ieri, insieme Gasperini, Hall's Category, come i grandi colli del Tour de France, poi c'è Inzaghi... Sai la mia vecchia teoria, che dico dall'estate, che c'è sempre un po' di sottovalutazione mediatica sulla Lazio. Assolutamente. La Lazio secondo me ha dei valori tecnici, ha un mix di valori tecnici, mi riferisco soprattutto alla fase offensiva, e di compattezza, cioè una squadra molto, molto solida. Devo dire, i meriti sono anche comunque di molto solida, molto equilibrata. molto equilibrata, con pochi punti deboli, con una rosa non particolarmente profonda, ma negli 11, nei 14 di grande livello. Quindi sì, io lo dico, per me la Lazio non è inferiore all'Inter, tanto per essere chiari, e l'ha dimostrato nel derby d'andata, non è inferiore alla Roma e in certi momenti non è anche inferiore alla Napoli. Forse dal punto di vista, dal punto di vista qualitativo dei picchi di talento, sì. Dal punto di vista della somma del talento, sì, ma sappiamo la somma del talento. No, ma poi per il resto ha altri vantaggi, nel senso di essere non ha le coppe, altri vantaggi, nel senso che a me sembra comunque una squadra più completa, più compatta e più equilibrata. E dicevo, comunque, a parte Gasperini, Os Categori, Inzaghi e Giampaolo sono per me i tre tecnici dell'anno. Un'ultima domanda, Michele Plastino, tu lo conosci bene, è stato allenatore della Lazio. Il terzo posto può essere a portata di mano, ovviamente il destino non è nelle mani dell'Inter ma di chi la precede. Ebbene, secondo te, Michele, ipotizzando una Inter formato sfida alla Juventus con un grande intervento estivo di Suning, tu terresti Pioli alla guida della squadra comunque vada, oppure cercheresti un top allenatore, faccio il nome di Conte, per esemplificare? Allora, se cerco furiosamente l'immagine internazionale per milioni di altri motivi, mi scelgo anche un altro allenatore. Se scelgo un allenatore di campo bravo, competente e a cui mi piacerebbe molto, se fosse un presidente ricchissimo, dare una straordinaria possibilità, cioè dare la possibilità di avere una grande squadra, mi terrei stretto Pioli. Molto bene, questa è l'opinione di Michele Plastino. Con Pierluigi Pardo parliamo anche di questo argomento subito dopo la borsa. Torniamo, grazie Michele, alla prossima. Grazie a voi, ciao, ciao, Pier, ciao, ciao, a dopo, ciao. Convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Non c'è bisogno che mi fai vedere i numeri, penso che ha fatto un lavoro straordinario, era una squadra che non riusciva a uscirne fuori, faceva fatica, oggi sta lottando per un qualcosa di importante e penso che da collega grande rispetto per il lavoro che ha fatto e per come allena, ma è da un po' di anni che sta facendo grandissime cose e io sicuramente lo terrei, ma sono sicuro che l'Inter lo tiene, perché secondo me sia i giocatori, la tifoseria l'hanno dimostrato, hanno grande rispetto nei suoi confronti per la persona e per le capacità che ha. Queste sono le parole di Gattuso ieri sera, ospite nel salotto di Pardo a Tiki Taka. Vero, no? Giusto, confermi Pardo? Confermo. Confermi. Dunque, spero che si senta meglio il tuo telefono. C'è uno che scrive un messaggio molto bello. Ma da dove parla Pardo? È dentro un bussolotto in Asia o semplicemente ha un telefono antiquato? No, allora, telefono next generation praticamente. Ultramoderno. Dentro un bussolotto, non credo, in Asia non mi risulta. No, in Asia non mi risulta, anche se in Asia comunque mai si può vedere il derby, è un orario ottimo. Un orario ottimo, potrei anche andarci, però no. 12, ripeto, derby di Milano, 12:30, mezzogiorno e mezzo del 15 aprile, il sabato che precede Pasqua. Luigi D'Ancona, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie della convocazione. Volevo parlare, se possibile, un attimo della questione di Allegri e del moralismo, anche se alcune cose sono state già dette, perché dicevate che ci siamo dentro tutti, no? Giustamente, perché poi è vero, io infatti dipende molto dentro da, dove? Ai discorsi che fa Allegri sull'incoerenza e sulla questione degli arbitraggi, che ognuno protesta quando si trova un attimo in difficoltà con gli arbitri, e, diciamo, non c'è un dato oggettivo che fa sì che... Sì, quando si tratta di pagare si protesta moltissimo, quando si tratta di incassare si incassa. Esatto, è così, ed è giusto quello che dice Allegri, però... Credo che molta della credine che ci sia nei confronti della Juve derivi anche dal fatto che pur parlando di regole, la Juve è la prima società a non rispettarle, perché ancora festeggiare due scudetti in più rispetto a quelli che le sono stati assegnati, credo che sia un esempio pessimo nei confronti di tutto il calcio italiano. Questa storia dei due scudetti è una storia che non finirà mai. No, la storia non finirà mai. Io sono d'accordo in assoluto sul fatto che... Per me gli scudetti sono quelli... Duralex e Sedlex. Sì, Duralex e Sedlex, io sto dalla parte della legge. Anche non si condivide, mi pare chiaro che la Juve non condivida tutto ciò che è avvenuto e i provvedimenti che sono stati poi presi dal giudice sportivo e dalla federazione, però poi è ovvio che sugli almanacchi quei due scudetti non ci sono. Non ci sono negli albi d'oro. Per esempio, quando la nazionale ha giocato al Juventus Stadium, dove sono stati coperti i numeri con gli scudetti. Sicuramente sì. La Juve di Agnelli, che però ha ottenuto risultati straordinari in questi ultimi anni, sicuramente non ha mai nascosto, non ha mai smesso di strizzare l'occhio ai tifosi da questo punto di vista. Certo. È un'ostentazione tutte le volte del numero di scudetti aggiungendo in quelli. Sì, è come se uno dicesse: io sono, insomma, secondo me Armstrong comunque faceva quello che facevano gli altri, dunque non doveva essere punito, dunque per me quelle croci nere sull'albo d'oro del Tour de France non esistono. No, esistono. Ora, senza fare alcun parallelo, faccio il primo parallelo che mi viene in mente, e quindi anch'io come Pardo sto dalla parte di quello che sta scritto sugli almanacchi. Non parlo nel merito della questione, perché non c'è da ricalcare. Io nemmeno, Pierluigi. Non l'ho seguita con l'attenzione che, secondo me, soltanto chi veramente ha partecipato alle udienze e ha seguito ogni singolo dettaglio e ha delle conoscenze giuridiche di un certo tipo può avere un'idea piuttosto precisa, quindi non entro nel merito di quella questione lì. Dico che nel momento nel quale comunque si deve prendere, è ovvio che l'ufficialità è quella. Esatto. Dico però che dal punto di vista della comunicazione, alla fine la Juve fa come gli pare, cioè si vuole, la Juve fa come gli pare, e dico anche di più, ognuno ha le sue opinioni e se le tiene. Il fatto che qualche tempo fa, non mi ricordo chi era, non so che giornale, attaccato perché aveva messo il numero di studenti, diciamo quello ufficiale, sì. lì quello è un po' troppo di lei, no? Nel senso che posso capire che i tifosi della Juve si sentano con i due studenti degli vinti, e per me conta molto il fatto, parlando anche con i giocatori della Juve, di averli festeggiati con lo stesso capello, di averli festeggiati in campo, perché poi buona parte della soddisfazione per un calciatore non è tanto in quello che rimane sugli almanacchi, ma nelle emozioni che ha vissuto, per cui se capello quegli studenti sa di averli vinti, ha provato quelle emozioni non gliele può togliere nemmeno la giustizia sportiva, e quindi le cose vanno così. Poi ognuno ha le sue opinioni ed è giusto che se le tenga. Io sto con quello che sta scritto sulle carte ufficiali. Evaristo Beccalossi, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Salutami Pardo al corso di Rappmea. Ti saluto Pardo. È un corso di apnea. Sì. No, è che sai cosa, Beck? È in Asia. A parte il fatto che noi abbiamo ascoltatori anche in Asia, perché prima mi ha chiesto l'amicizia su Facebook un amico ormai che ci ascolta tutti i giorni dalla Corea del Sud. Mamma mia, pazzesco. È lì accanto a te. No, d'altra parte, Beck, c'è il derby in onore dei cinesi, e facciamo l'inchino anche se non si vede per radio, è l'ora della Cina, derby di Milano alle 12:30 del sabato prima di Pasqua, mezzogiorno e mezzo. Involtini primavera, tutti allo stadio. Ma sì, ma bisogna prendersi, adesso sentivo già i commenti a me a pranzo, poi ci sarà la colazione, la cena, il calcio che ci sta portando a... giustamente con le televisioni, con tutti gli interessi che ci sono, decidi l'orario, quindi dov'è il problema? Si giocherà dove si è mezza. Una volta si mangiava il risotto, adesso il riso alla cantonese. Meno male che ho giocato negli anni 80, perché se giocavano, cioè, più ritmo la mattina l'avevo molto male. Meno male che... abbiamo un sacco di problemi in Italia, anche nel calcio italiano, non prendiamocela con questi problemi, questo è un fitto problema. Nessuno sta dicendo... Qualcuno ha detto che è un problema, Pierluigi. Qualcuno ha detto che è un problema. Dove dominano a livello di calcio europeo, giocano, c'è uno spezzatino che è di proporzioni pubbliche. Ma nessuno, una partita alla volta. Quindi. Guarda. Io non credo che nessuno, a parte quelli che dicono no, per me il calcio non è più calcio da quando non si gioca la domenica alle 14.30 tutti insieme. E allora, vabbè, lì siamo a questione di integralismo e non si può fare alcuna discussione. Noi ci fermiamo invece per il traffico, poi con Evaristo Beccalossi facciamo una discussione vera su questa storia di Pioli, che a me affascina molto. Mi affascina molto questa storia del destino di Pioli. Tutti convocati. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta... Convocati. Allora andiamo subito a bomba che siamo un po' di corsa. Evaristo Beccalossi, mettiamo che l'Inter arrivi terza, mettiamo, fai pure tutti gli scongiuri che vuoi, quindi che Pioli centri il risultato. Non so se sul suo contratto c'è scritto che il rinnovo sarebbe automatico, ma questo conta poco. Arriva Suning con un sacco di soldi, compra Di Maria, Mertens, Trotman, Berardi e tanti altri, magari anche Verratti come qualcuno vorrebbe, magari Maradona, chi vuoi tu, fa la squadra per sfidare la Juventus. Pioli Maradona lo gioca più, penso, Messi. Va bene, no, sì. Messi, ma Messi e anche Cristiano, Messi e anche Cristiano Ronaldo, no, Cristiano, no, e poi Beccalossi, e poi pure Beccalossi. Morale, no, no, no. Pioli lo confermiamo o no? Ma anche se non arriva terzo, secondo me è chiaro che l'obiettivo che devi andare è in fondo e sperare, cioè, che se Roma, tu Napoli, l'anno prossimo vuoi sfidare la Juventus, fai un supermercato. Pioli merita. Allora, noi facciamo presto perché commentiamo. Quando è arrivato Pioli, la situazione era disastrosa. Cioè, c'erano dei giocatori che erano impresentabili. Sì, beh, sono d'accordo. Ha fatto tantissime cose, l'ultima delle quali rilanciare Banega, che era un UFO, un oggetto misterioso. Condombià sembrava il più grande pacco della storia del calcio, verissimo, tutto vero, ha messo ogni cosa al posto giusto, ma qui stiamo parlando di... E non era facile, sottolinea che non era facile, perché guarda che è una squadra che metterla insieme con giocatori con determinate caratteristiche, non era facile, perché sei fuori anche in questo momento, ed era nazionale, Mario è stato pagato una cifra. Insomma, è stato bravo, ha fatto arante di stato una situazione che era difficilissima. Quindi solo per quello mi auguro che benissimo, arrivi terzo, devi ripartire. Ok, poi ci sono anche quelli che ti fanno vincere le volate perché sono i più bravi a tirare lo sprint a qualcun altro che fa lo sprinter di professione. Magari può essere lo stesso discorso di, ad esempio, che si può applicare a Pioli e a Conte, Pierluigi Pardo. Sì, io faccio un po' fatica a non comprendere la suggestione. Pioli sta facendo un lavoro straordinario, proprio straordinario, e mi sembra che ci sia un'ulteriore crescita della squadra, che in queste uscite finali con Cagliari e Atalanta, insomma, mi sembra veramente che ci siano dei segni molto importanti. È pure vero che si deve andare... Guarda, col paradosso di Ranieri, 15 anni fa al Chelsea, che portò la squadra al quarto posto, quindi alla Champions League, e poi venne sostituito da Mourinho. È un po' la stessa situazione, cioè, l'ho detto, sì, anche, ma anche il paradosso è che meglio va Pioli, se dovesse andare al quarto posto, da un certo punto di vista potrebbe esserci o da un lato la decisione di tenerlo per premiarlo per il lavoro fatto, ma ci potrebbe essere, ed è comunque accettabile, ed è un ragionamento che ci può stare, la voglia di aumentare ulteriormente gli investimenti e quindi di andare su di quei due tre allenatori che hanno un livello. Sì. Io sono d'accordo con te, perché è vero che Guardiola, prima di essere Guardiola, era allenatore della squadra B del Barcellona, lo stesso vale per Luis Enrique, che è passato attraverso la Roma, lo stesso vale per chi volete voi tra i super allenatori attuali. Però è anche vero che Beck, nel momento in cui vuoi lanciare la sfida alla Juve, magari anche per ragioni di immagine, di grandeur, vai su qualcuno che conosce la strada. Di abitudine a gestire grandi rose. Bravo, Pierluigi, di abitudine a gestire grandi rose, grandi personalità e grandi contratti. Ma sì, fa tutto il ragionamento che avete fatto, perché a parte che io non parlo in plurale, perché credo che quello che piace di più sia sicuramente Conte. Quello che ha fatto Pioli, e se ha intenzione veramente di prendere 3 o 4 top player per fare questa squadra a livello europeo, credo che Pioli, infatti, in questo momento ha dimostrato tante cose, al di là che poi chiaramente ti dicono sì, ma qualche scontro diretto ha perso con le prime in classifica. Io faccio un'altra domanda: e se fosse partito lui dall'inizio, secondo me a questo punto eri lì a giocartela con la Roma e il Napoli per la Champions League. Sì, questo lo credo anch'io, questo lo credo anch'io di sicuro. Evaristo, ti ringrazio, ti saluto, sì, ti ringrazio. Ci sentiamo, a voi, ci sentiamo la prossima volta. Ci sentiamo... Comunque sia, sì? Per Pioli è un successo, nel senso che la caratura di Pioli sta crescendo molto. Il suo valore è aumentato, diciamo. Il suo valore di mercato è aumentato. Poi, detto questo, io forse sono più della parte di Gattuso, cioè forse lo terrei un po' perché mi piace la riconoscenza come valore, un po' perché mi sembra che ci siano. Pioli aveva già fatto una grande impresa con la Lazio, non dimentichiamocelo, cioè è un allenatore di quelli che non hanno ancora ovviamente il pedigree e il livello di esperienze vissute che possono avere Conte, Mourinho, Guardiola e Simeone, però Ancelotti, è uno anche Allegri, anche vero, però... che Conte, prima di essere Conte, era stato licenziato dall'Atalanta, veniva da una buona esperienza con il Siena, eccetera. Poi, pensa a Sarri fino a due anni fa non aveva mai allenato la grande squadra, facendo cose molto buone. Ecco, quindi... ti voglio fare una domanda così a bruciapelo, ne parlavo prima con De Luca, che è un mio grande ispiratore. Impazzisse De Laurentiis, se decidesse di fare una squadra per sfidare la Juventus, ti terresti Sarri o andresti anche in questo caso su un profilo diverso? Andrei su un profilo diverso. Vedi, stessa però risposta che ho dato io. Questo non toglie, niente a nessuno. Tra l'altro, secondo me, allargando un attimo il discorso dal calcio alla vita, è molto interessante perché su Sarri all'inizio c'era nei primissimi mesi un po' di pregiudizio, no? Legato al fatto che non aveva mai allenato una grande squadra. Invece secondo me è un esempio di come tante volte ci sono dei pregiudizi o semplicemente c'è il fatto che non sai come andrai. Certo, prima di tuffarti, certo, da 10 metri non lo sai come sarà. Certo, certo. E Sarri ha dimostrato invece di essere assolutamente adatto. Però se serve un tipo di profilo di livello... se fai gli investimenti sono di tipo diverso, probabilmente una piccola ancora maggiore. Per chiudere, per tagliare la testa al toro, io rimango dell'idea che allenare un top club è un mestiere diverso rispetto a fare l'allenatore. Pierluigi, io ti saluto, ciao. Sentiamo domani, ciao. Ti saluto perché adesso devo partire per l'Inghilterra. Kanté al limite, calcia con destra, Kanté segna sempre contro il Manchester United, Golo Kanté, l'uomo bionico, fa 1-0. Allora, invidio molto Emanuele Corazzi che ieri per Fox Sports era a bordo campo nel racconto di questo Chelsea-Manchester United finito 1-0, guarda un po', per Conte, che a momenti viene alle mani con Mourinho. Mi racconti, ciao Emanuele, mi racconti che cosa è successo? Ciao, buongiorno. Ciao. Innanzitutto ti racconto che evidentemente la transagonistica in quel momento ha fatto la differenza, ovvero i carichi, sai che quella partita ha un significato enorme perché Conte più o meno sicuro di aver vinto la Premier League, dunque l'FA Cup è l'ultima. Vale la semifinale di FA Cup dove andrà Conte, certo. Sì, e vale il fatto che giochi contro colui che ha riscritto la storia del club che alleni, perché comunque... Mourinho è arrivato, cioè ha vinto 6 trofei in più di 100 anni, ne ha vinti 6 e poi altri 2, quindi è chiaro che inevitabilmente la partita era un po' caricata, sì, emotivamente. Poi sappiamo che tra i due non c'è un grandissimo feeling. No, è una prova di, comunque vogliamo, cioè, grande personalità di Conte, perché appena Mourinho è uscito dall'area tecnica è andato a ringhiagli e transagonistica, dopodiché sono tutti elementi che contribuiscono al fatto che ieri lo stadio ha cantato Antonio continuamente, ancora prima di questo gesto, e alla fine ha cancellato Mourinho. Ieri il pubblico, sì, di San Polpigia... Possiamo però dire che Conte ieri transagonistica, ma un po' esagerato. Sì, probabilmente è andato un po' oltre, per quello parlo di transagonistica, poi subito dopo però non è andato oltre in questa polemica, ha voluto ricondurre tutto al campo, chiaramente più facile quando vinci. E posso aggiungere che il pubblico del Chelsea può anche stare con Conte a essere ingrati nei confronti di Mourinho e cantare contro Mourinho. Mi sembra un po' esagerato, cioè, assolutamente, che non era abituato a vincere. No, ma poi Mourinho ha detto alla vigilia: mi chiamate Giuda, sì, però sono il Giuda numero uno, ha detto una roba del genere, no? Io Giuda, Sima number one. Mi confermi invece che non c'è stata stretta di mano in Inghilterra, che è una religione tra i due allenatori alla fine della partita? No, non c'è stata stretta di mano. I due si sono incrociati, ma volutamente evitati. Poi Mourinho è entrato negli spogliatoi per primo. Volevo osservare quel momento, infatti mi sono messo nel tunnel a vedere. Mourinho è entrato per primo, abbastanza corrucciato per come era andata la partita. Invece Conte è entrato negli spogliatoi urlando come on, sembrava un giocatore in quel momento, quando entrava. Era il più carico dei giocatori che rientravano. C'era Diego Costa che faceva il personaggio, no? È sempre uno dei leader nei momenti delle feste, però Conte era anche oltre. Sì. Insomma, Conte è Conte, non c'è nulla da fare. Ogni giorno che passa si contizza il Chelsea sempre di più. Emanuele, grazie, ti ringrazio. Ciao, Emanuele, grazie, ciao, da Fox Sport. Allora, adesso ci fermiamo per il GR, poi torniamo con Marino Bartoletti e della musica molto particolare. E poi avremo un grande ospite, milanista, doc, grande personaggio della cultura italiana, direi, Renzo Rosso. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco, Marco il ciclista, ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, non so neppure se ero un pirata, strappavo la vita col cuore e coi denti, e se ho sbagliato non me ne sono reso conto. Ho preso le cose fin troppo sul serio, ho preso anche il fatto di avere ogni tanto esagerato per sentirmi più vero. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino e mio nonno mi aspettava. Beh, io lo ascolterei tutto questa... Mi alzo sui pedali di Curreri. Vorrei essere ad Altamura in questo momento. Il perché ve lo spiega il mio maestro Marino Bartoletti. Ciao Carlo. Ciao. Sì, sono ad Altamura. Io mi alzo sui pedali di Bigazzi, Falagiani, Curreri. Bigazzi e Falagiani sono quelli che hanno vinto con la colonna sonora di Mediterraneo l'Oscar, voglio dire. Mica paglia. E Curreri. Sì, sono ad Altamura perché... Da due giorni, visto che il criceto che corre nella ruota del cervello del tuo amico Marino non si ferma mai, ho coronato un piccolo sogno, quello di parlare davanti ad un'orchestra e quindi per parole e musica andrà in scena uno spettacolo che fa il paio con quello che già sto facendo, lo scoprirete solo venendo, in cui io racconto la storia del nostro paese attraverso il ciclismo e attraverso i grandi autori che al ciclismo hanno dedicato le loro canzoni, i loro brani, per cui sentiremo, grazie all'orchestra Mercadante di Altavura, quindi è la prima volta che dirigo 60 elementi, poi per dire, per fortuna dirige il maestro Roberto Molinelli che ha fatto gli arrangiamenti, sentiremo Coppi di Paoli, Bartali di Conte, Girardengo di De Gregori, ma anche Pike dei Pink Floyd e Pike Race dei Queen, e poi c'è un trittico finale dedicato a Fantani, i Nomadi, Baccini e gli Stadi. Sì. Penso che ci divertiremo. Sì, e vorrei, mi piacerebbe molto essere lì, non posso per questioni di tempo e geografiche. Ti mando il CD, mi lasci solo dire che... No, io volevo anche invitarti a parlare di un'altra cosa, di questo Mi alzo sui pedali dedicato a Marco Pantani. Perché? Perché dietro questa nostra scelta comune c'è un perché. Sì, perché due giorni fa se n'è andato Romano Cenni, che era il titolare della Mercatone 1, cioè dell'azienda che ha dato una seconda nuova vita a Pantani. Ricordiamo che Pantani è stato raccolto con le ossa rotte, nel vero senso della parola, da questo signore, e da Luciano Pezzi, che ne era il direttore sportivo, grande padre nobile di Marco Pantani, e che hanno detto: tu pensa a guarire, quando torni sui pedali noi saremo a tua disposizione per metterti una bicicletta e tornarti a far vincere. E lui due anni dopo vinse il Giro d'Italia, il Giro di Francia, eccetera eccetera eccetera eccetera. E Romano Cenni è anche quello che ha voluto quella grande biglia che, per chi percorre la A14, è perfettamente visibile vicino a Imola in direzione sud, alla propria destra, dove c'è Marco Pantani. Una cosa, sì, bella, struggente, ma in questo momento anche molto dolce. Oggi sono 13 anni e un mese che Marco non c'è più. Sì. Dall'altro canto, Romano Cenni, questo è giusto ricordarlo, venne ripagato da Marco Pantani nel momento in cui Pantani veniva corteggiato a suon di miliardi di lire, e decise di rimanere con i suoi amici, con il suo piccolo club e con Romano Cenni stesso. Ed è sempre rimasto con loro e non li ha mai traditi, malgrado qualcuno che forse poi gliela fece anche pagare, avesse tentato a suon di miliardi di portarlo via. Però va bene così, prima che cade il tempo delle due ruote, facciamo gli auguri a Graziano oggi che compie gli anni, mi raccomando. Ah. Facciamo gli auguri a Graziano, sennò si impermalosisce. Oltretutto già il suo bambino Valentino ancora non gliel'ha fatti, perché come dice Graziano ha dei tempi di reazione di un bradipo, se non in pista, però insomma proviamo, 5 giorni. Ragazzi, mi rivolgo alla regia, proviamo a chiamarlo al volo. Giorgio De Luca, provi a chiamarmi al volo Graziano Rossi, che gli facciamo gli auguri di Marino. Perché gliel'ha fatti la sua bambina Clara, il suo bambino Valentino, che adesso è preso da altri impegni dall'altra parte del mondo. Al volo, al volo, al volo, chiamiamo, ti do io il numero, vieni, ho il cellulare qui, stiamo facendo tutto in diretta, clamorosa. Se non è diretta questo, se non è diretta, toh, cerca Graziano Rossi e chiamalo immediatamente. Intanto io vado a farti sentire un altro brano. Del rione. Televisione, televisione. Fammi vincere un milione. Televisione, televisione. Chi è che c'ha il più bel faccione? Televisione, televisione. Tu che guidi la nazione, tu che dai l'informazione, tu che svolgi la missione verso tutte le persone, tu che sei la nostra chiesa e la nostra religione, tu che ci accompagni a cena, a merenda, a colazione. Cena, merenda, colazione e ora di pranzo, il derby di Milano, lo ricordo, 12:30 del giorno prima di Pasqua, a pranzo. Mamma mia. Che cosa ti può andare di traverso, la brioche a quel punto? Però vabbè, dai, siamo dei contemporanei. Su, dai, invece del risotto, risola cantonese, involtini primavera, Marino. La mondovisione, guarda, io ricordo che nel 1988 a Seul mi fecero e ci fecero vedere la finale dei 100 metri del secolo, quella fra Ben Johnson e Carl Lewis, la più drogata di tutti i tempi, almeno per quello che fu il podio che ci rifilarono, e ti assicuro che mezzogiorno e mezzo a Seul era caldo, ma proprio caldo, caldo, caldo, caldo. Però c'erano delle esigenze che in quel momento guardavano a ovest, e cioè le grandi major americane. Adesso probabilmente abbiamo delle esigenze televisive che guardano a est, ormai siamo tutti figli della televisione. Il cellulare spento, Graziano Rossi, è stato la festeggiata. Adesso, adesso ci riproviamo. Se vuoi, ti dico le sue impressioni sui test di Valentino. Dimmele. Ha detto che è molto, molto ottimista, perché quando comincia male i test, in genere la stagione non va bene. Quest'anno, visti i test, la stagione dovrebbe andare benissimo. Un commento tecnico sul compagno di squadra di Valentino: quest'anno è una bella pugnetta. Quest'anno è una bella pugnetta sul serio, sì sì. No, ma io volevo parlarti con questo televisione, con questo Jovanotti, di partite che tra un po' non vedremo più a velocità normale. Le vedremo alla velocità della moviola. Perché se no qualcuno ruba le immagini o fa vedere quello che vuole lui. E allora poi anche noi parleremo così. Ma io, se tu vuole, parlo come parlavo quando cominciai a fare televisione, cioè nel 1982, al processo del lunedì, dico al processo del lunedì, e Dio ci restituisca Mosca, De Cesare, Gazzaniga e tutti quelli che c'erano allora, perché vedo che una generazione è passata inutilmente, assolutamente inutilmente. Guarda, visto che prima non ho usato una parola aulica, adesso cerco di essere aulico. Mi sembra che ormai chi segue il calcio ha superato il piacere della copula per sostituirlo con il più modesto piacere dell'onanismo. Insomma, una volta si scopava, adesso si fa delle seghe guardando le partite. Cioè, ormai la partita non conta più nulla, è soltanto il pretesto per la masturbazione successiva, o no? Assolutamente, maestro, ma assolutamente. La partita è un accessorio completamente inutile. Dateci gli highlights, se proprio volete. Dateci gli highlights e una bambola di gomma. Io non voglio più andare allo stadio perché non mi fanno vedere il replay. Capisci che quando un'azione è finita e non me la fa più vedere nessuno. No. Dateci una bambola. Che sconcezza. D'altra parte, questo ormai è il mondo in cui uno, se va a vedere la Gioconda, non dice: oh, che bella la Gioconda, si rasserena l'animo, lo spirito, alza la sua cultura. No, si fa il selfie, però non vale. O no? Ma assolutamente, assolutamente. Allora, viviamo in questo mondo di pugnette, rifacendoci all'aulica definizione del mio amico Graziani. Auguri ancora per il suo 63esimo compleanno. E andiamo avanti così, ragazzi, divertitevi così. Sì. Io lo facevo a 14 anni, poi. Neanche. Mi sono giocato tutti i follower su Facebook. Vabbè, allora andiamo con un altro pezzo, va. Andiamo con un altro pezzo. Siamo al top. E sì, siamo al top. Sex Pistols per Marino Bartoletti. Mica male. Che ti devo dire? Che vuoi da me? Voglio che mi parli di Savonarola Allegri. Sulle note di Anarchy in UK, dove ieri a momenti Conte mette le mani addosso a Mourinho, salta perfino la sacra stretta di mano tra allenatori, sacra in Inghilterra, ovviamente, fino alla fine del match, eccetera, eccetera, eccetera, mentre Allegri moralizza. Guarda, vi ho sentito prima mentre discettavate giustamente sull'argomento, ed è difficile all'alba del 14 marzo essere originali su questa cosa. È chiaro che Allegri ha ragione, avrebbe ancora di più ragione se il comportamento suo e della sua società fossero sempre state perfettamente coerenti. I rocks ammonivano che bisogna saper perdere, ma bisogna anche saper vincere. Dopodiché però io sottoscrivo tutto quello che ha scritto, naturalmente. Sono indignato per tutte le cose che sono accadute prima, durante e dopo quella partita, sinceramente. Non è da dipendenti di una grande squadra come il Milan, società che ha fatto la storia, forse anche culturale, dello sport italiano, fare quello che hanno fatto. Non è da dipendenti della più grande società di calcio italiana, la società farlo del calcio italiano, cioè la Juventus, continuare ad esporre degli scudetti che non ha mai vinto. Insomma, ci dovrebbe essere una legalità della cultura, se permetti, che non dovremmo mai tradire. Si potrebbe parlare veramente un anno, un mese, una vita, no, però non riusciamo. Però guarda, forse è colpa nostra, che sia colpa nostra. Guarda, io ti dico, io posso essere una volta in disaccordo con te su un punto. Allora, io prima ho detto sto con gli almanacchi, per me è sacro quello che sta scritto sulle tavole della legge, punto. Detto questo, ognuno in casa sua fa quello che vuole, metti i quadri che vuole e l'ospite non deve venirmeli a danneggiare perché non gli piacciono. Certamente. Hai perfettamente ragione, magari che ho premesso che quello che mi ha indignato di più è il comportamento dei giocatori del Milan, non si imbrattano gli spogliatoi perché mica poi hanno messo i fiori nello spogliatoio di Sassuolo quando è successo quello che è successo. E quindi veramente il Milan quest'anno è assolutamente apprezzabile per quello che ha fatto, a cominciare dal suo allenatore che proprio quel giorno triste di quella partita ha dato un grande esempio di galantomeria. È stato perfetto. Allora, deve essere perfetto. Io non so se il Milan ha chiesto scusa per quello che è accaduto, non so se ha riparato i danni, non so se c'è stato un contatto privato fra le società, ma insomma, se anche i giocatori professionisti, io ho visto Donnarumma con gli occhi fuori dalle orbite, Poli irriconoscibile, Romagnoli e altri suoi giovani compagni che tutti apprezziamo perché sono il futuro di questo calcio, perdere la testa per un rigore certamente doloroso che forse non c'era, dato in un momento inopportuno, però non è giustificabile la reazione che poi alla fine del Milan si ricorderà questo triste momento e non le cose belle, importanti, fertili che ha fatto in questa stagione. Sì, poi per tornare al discorso di qui sopra, cioè quello delle pugnette e di altre cose, perché ha visto la partita a velocità normale. Ma chi l'ha vista a velocità normale? Perché ormai... No, ma per chi l'ha vista a velocità normale, io raramente, devo dire, ho visto uno Juventus-Milan così squilibrato, nel senso che la Juventus ha meritato la vittoria, al di là di quello. Poi, se vogliamo sbriciolare la partita in polverizzarli in mille episodi, poi il calcio è strano e poi tutto quello che vogliamo, però ne consegue che la vittoria della Juventus, pur come è arrivata, insomma, è stata, mettiamo una vittoria ai punti, facciamo così. Se fossi tifoso milanista sicuramente sarei seccato per quello che è accaduto. Sì, pure io. Riflettendo un pochino su quello che è accaduto, casomai sarei più seccato per il fatto che la mia squadra non si è ripetuta ai buoni livelli con cui già si era comportata contro la Juventus, strappandola anche una coppa molto importante. Non è una reazione di classe quella che è avvenuto, e mi rendo anche conto che qualsiasi cosa diciamo di pro, di contro, di ricco di buonsenso viene comunque utilizzato, strumentalizzato, spezzettato, sbriciolato, come dici tu, da qualcuno che non è più in grado di applicare, la dico grossa, la cultura al mondo dello sport. Certo. Marino, grazie. Io domani faccio cultura, ci provo nel mio in piccolo, bocca al lupo o in culo alla balena, come si usa dire in questi casi. Viva la balena e vive il lupo. Ciao. Io prima vi ho detto, avremo come ospite a proposito di cultura, un esponente della cultura italiana, il cui nome è Renzo Rosso, il signor Diesel. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Oggi alle 19 al Milan Store di San Babila presenterai la divisa casual del Milan, giusto? Sì, no, diciamo che presentiamo il bomber rosso-nero, perché in questa divisa c'è un capo d'abbigliamento che giochiamo sul doppio nome, quindi bomber come punta del Milan, bomber come divisa nuova rosso-nera. Sì, a me è piaciuta molto nell'ultima chiacchierata che abbiamo fatto l'idea della giacca con le maniche di maglia per Io porto la 50, Renzo? Va bene, con piacere. Giusto per fare il paraculo, io porto la 50. Senti, prossimo ai notizie di oggi, a proposito di globalizzazione di cui tu sei un professore, notizia di oggi che il prossimo derby si giocherà sabato 15 aprile alle 12:30. Ne abbiamo già parlato a lungo nel corso di questo programma, proprio a beneficio dei nuovi fruitori del mercato, cioè i cinesi. Cosa ne pensi? Speriamo che arrivano veloce, così possiamo finalmente concentrarci. Dico che si concentrano per fare una squadra bella, perché questo Milan è veramente grandioso, è un nome, è un icon brand, merita molto, ha dato molto. e oggi ha bisogno forse un po' di una rinfrescata per tornare a essere la grande squadra che è sempre stata. Sì, certamente, speriamo il closing arriva presto, ma dall'altra parte del naviglio il closing è già arrivato con un super colosso e la vedo dura l'anno prossimo, perché dall'altra parte faranno sul serio, cioè quelli con la maglia nera-azzurra. Ma sai, a volte anche avere dei giocatori giovani aiuta molto, per cui fare una bella politica con dei bravi giovani potrebbe portare a fare dei risultati anche superiori, godere di molto più entusiasmo e anche di avere un pubblico più simpatico, al posto di avere una squadra arrogante, piena di soldi, che magari solo per chi, per quello che ha speso, non può guadagnare tutte le simpatie che potrebbe guadagnare una squadra giovane messa insieme con simpatia. E questa è la Renzo Rosso filosofi, no? Sì, questa, scusami, perché sono la morta di Kate Herring, quindi devo fare un po' in silenzio perché mi stanno guardando. No, adesso ti lascio. Juve-Milan di venerdì sera, cosa ne pensi? Oggi arriva questo rigore tardivo, queste proteste, il casino che ne è successo. Ma sai, dispiace eccessivo. Perché penso che la Juve comunque abbia avuto anche lei i suoi malanni in tempi passati, dove ha portato a casa qualche scudetto, forse in maniera non così lecita, visto quello che hanno detto poi i risultati, visto che oggi invece Juve è la squadra sicuramente più forte del campionato da un po' di anni, mi aspetterei che fosse un po' più gioiosa, un po' più fire play per quello che è successo. Quindi, sì, è successo, a volte succede a uno, succede all'altro, invece di contestare. L'ultima cosa, Renzo, importantissimo tornare in Europa per questo Milan, per tutto quello che circonda questo Milan, no? L'Europa aiuta, perché l'Europa ci può dare visibilità, l'Europa ci può dare anche molto più business, e quindi anche per noi sarebbe fantastico, quindi speriamo di sì, dai. Ci sono comunque dei bei giocatori, qualche altro arriverà e quindi faremo molto bene. Bocca al lupo, grazie davvero. Grazie mille, grazie. Porto la 50, te lo ricordo. Porto la basta 50. Che sei milanista, basta che sei di fede milanista. Questo non posso rivelare i miei colori, mi dispiace, dottore. Ciao. Buona Renzo. Giornata, ciao, grazie, ciao. Grazie a Renzo Rosso. Dunque, mi hanno rimproverato in molti di non aver parlato di Champions League, ma stasera c'è la Champions League, gioca una certa Juventus. Te lo ricordi oppure no? Ragazzi, lasciamo che giochi Juventus con il Porto, il Leicester senza Ranieri con il Siviglia. Forza Siviglia! Forza Siviglia! No? Forza Siviglia! Vabbè, lasciamo che giochino e poi domani avremo tutto il tempo per discuterne, per parlarne. Io ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, ringrazio Gianmarco Ferronato in regia, ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione. Chiudiamo con una canzone, eh? Dai, rimettimi Anarchy, ok. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Saluti!